Italia in controluce. Notizia di questa mattina, l'avete sentita anche nei GR, giovani fra i 18 e i 34 anni che lavorano vivono nella paura di non avere fra qualche anno la pensione e di trovarsi in una situazione di ristrettezze economiche. Lo dice un'indagine Censis diffusa dunque questa mattina. Ma per molti giovani l'incubo non è affatto nel futuro, ma nel presente, l'incubo di non trovare un lavoro. E allora ci si ricicla, ci si reinventa, oppure si mettono in discussione decisioni già prese, come sta succedendo a molti laureati o studenti universitari. È di questo che parliamo oggi in Italia in Controluce. Lo facciamo con la nostra Cristina Carpinelli, che ha curato per noi questo approfondimento. Cristina. Sì, Piera, se volessimo guardarla in maniera negativa, questa potrebbe essere la storia di un sogno al ribasso, cioè stiamo parlando di ragazzi che si sono già laureati, hanno tentato di entrare nel mondo del lavoro e cercano in qualche modo di ricollocarsi. E cosa sta succedendo in questo tentativo di ricollocarsi? Che per la prima volta in Italia ragazzi già laureati, però a volte con lauree deboli, si ritrovino dopo numerosi tentativi a tornare sui loro passi e a intraprendere la strada dagli istituti tecnici superiori, detti anche ITS. Si tratta di scuole pensate come alternativa proprio all'università, che offrono un'ottima preparazione dal punto di vista proprio tecnico. Questo è quanto ci racconta Ferdinando Santonicola dell'ITS per la mobilità sostenibile di Gaeta. ITS è l'acronimo che sta per Istituto Tecnico Superiore ed è, diciamo così, la nuova denominazione che ha dato il MIUR a quelli che una volta si chiamavano Politecnici. Il fattore più rilevante dell'ITS è che sono in effetti delle scuole lavoro di formazione. Noi, ad esempio, stando all'ITS Fondazione Caboto, siamo di fatto un'accademia mercantile, un po' come può essere quella lì di Genova, per intenderci. Forniamo un anno di formazione in aula più un anno di imbarco regolarmente retribuito. Nel momento in cui il candidato sostiene il nostro bando ed accede ai nostri corsi, ottiene, diciamo così, un contratto di lavoro. E il nostro percorso formativo è suddiviso in questa maniera. Sono i primi 3-4 mesi di formazione introduttiva in aula. Dopo questa fase della durata di 3-4 mesi, l'allievo procede ad effettuare 3-4 mesi di imbarco, le ripeto, regolarmente retribuito. E probabilmente questo regolarmente retribuito fa gola a molti laureati che invece una retribuzione non la trovano proprio oppure l'hanno purtroppo persa. Cristina? Sì, e in effetti anche l'idea quasi certa di uscire da questa classe dell'ITS e di trovare direttamente lavoro nelle aziende che sostengono anche appunto questi istituti. L'ITS è dunque, per riepilogare, un luogo dove si studia e si lavora. La cosa che ci ha portato a fare poi questo approfondimento è che nel giro degli ultimi 2 anni il numero dei ragazzi laureati che si sono iscritti agli ITS è letteralmente raddoppiato, quindi questo è il dato su cui abbiamo voluto ragionare oggi. Giulia Delle Fratte è la segretaria della Fondazione dell'ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali di Roma e ci ha proprio confermato questo andamento. Noi siamo alla seconda edizione del corso, quindi noi abbiamo 2 corsi in piedi e già nel primo ci sono stati 3 casi in una classe di 20 di persone di ragazzi che si sono laureati e poi non hanno, diciamo, trovato lavoro, quindi intorno alla 30 di anni, insomma, hanno queste persone e si sono iscritte al nostro ITS per tentare una seconda strada. Il tipo di laurea che avevano, a volte erano delle lauree magari non particolarmente specialistiche, quindi laurea in lingue, e quindi adesso stanno tentando il percorso da noi, che è sicuramente un percorso che li specializza di più. E anche in quest'anno, il secondo anno, abbiamo casi di addirittura mi pare 4 o 5 laureati, quindi sì, posso confermare questa cosa. Quindi sta aumentando questa tendenza, cioè sono ragazzi che avevano fatto un sogno, un percorso loro di vita, però poi sono tornati in qualche modo sui loro passi e hanno messo un po' i piedi per terra, se vogliamo dirla così. Sì, diciamo così, insomma, purtroppo è che il mondo del lavoro sta cambiando, è cambiato anzi, e quindi comunque richiedendo delle figure più specializzate o comunque con una formazione più pratica, a volte la laurea che uno intraprende non dà questo tipo di risultati. Il mondo del lavoro dunque è cambiato, sono richieste figure più specializzate e gli ITS rappresentano una buona formula. Lo ricordiamo, sono nati nel 2011, quindi un paio d'anni fa, voluti fortemente dall'ex ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, parliamo del governo Berlusconi, anche per colmare il gap con altri paesi europei, che su questo sono davvero molto avanti. Pensiamo alla famosa Germania, di cui si parla tantissimo, dove la formazione tecnica ha numeri e dignità ben diversi da quelli che abbiamo qui in Italia. Una formula vincente, quella degli ITS, anche perché per nascere devono costituirsi in fondazioni che vedano lavorare insieme, non sempre questa cosa peraltro è facilissima, ma insomma comunque devono comparire enti di formazione, imprese, università oppure centri di ricerca ed enti locali. Se manca solo uno di questi elementi, il progetto non può vedere luce. Ora sono 58 gli ITS, ma ci sono già richieste dal territorio, pensiamo al territorio lombardo, e dalle imprese perché ne sorgano di nuove. Perché anche in questi tempi di crisi economica la richiesta di figure professionali specializzate comunque resta alta. Cristina. Sì, in effetti è quello che deve aver pensato il nostro prossimo ospite, che è un ex lavoratore di 42 anni, si chiama Francesco Forastiere, anche lui ha una laurea, aveva un lavoro a tempo indeterminato nel campo delle telecomunicazioni, un lavoro che d'improvviso, proprio complice la crisi, è svanito, è stato inghiottito in un attimo. Allora a casa, disoccupato, quarantenne, laureato, Francesco ha provato ovviamente la strada dei curriculum, non ha avuto nessun tipo di riscontro e ha capito allora che doveva indirizzarsi verso un altro tipo di competenza e di specializzazione. Io ho 42 anni, in effetti ho sempre lavorato, sono laureato in scienze della comunicazione pubblica ed organizzativa qui alla Sapienza di Roma. Ho avuto esperienza soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, ho lavorato per anni in una grande società di telecomunicazioni, ho avuto la possibilità di poter esperire diverse vie all'interno, diciamo così, di questa società di telecomunicazioni che mi hanno fatto comunque crescere anche da un punto di vista professionale. Ovviamente purtroppo la crisi internazionale ha fatto in modo che anche questa società ponesse in essere, diciamo, un nuovo piano industriale, e in base a questo nuovo piano industriale purtroppo è stato deciso che circa 1000 persone 5 anni fa venissero, tra virgolette, utilizzo un eufemismo, defenestrate dall'azienda stessa. Lei era tra questi? Sì, io ero tra questi. Premetto che io provenivo insieme ai miei colleghi da un contratto a tempo indeterminato, per cui tutto questo è successo con un contratto a tempo indeterminato. Ci siamo dovuti rimettere in gioco. Personalmente ho cominciato a verificare quali erano, nell'ambito della provincia di Roma o comunque della regione Lazio o anche a livello nazionale, i vari corsi che potevano soddisfare le mie aspettative, e ho trovato l'ITS, che è diciamo una struttura formativa che prevede la possibilità di ricevere una formazione tecnica superiore. Questa formazione tecnica superiore vale sia per i diplomati che per i laureati. Si tratta di un percorso, diciamo, di formativo parallelo a quello universitario. Per come la racconta, insomma, sembra una storia in cui tutto può succedere, ma io sto in piedi e vado avanti, no? Mi sono trovato questa cosa, trovo un'alternativa, mettiamo i piedi a terra e ricominciamo da capo. Non deve essere stato facile? Non deve essere stato facile, perché non lo è stato, in effetti. Per l'ennesima volta in qualche maniera ho dovuto sottostare a questa condizione, rimettermi in gioco, e mi è costato, certo che mi è costato da un punto di vista di stress che ho subito nel tempo. Penso che l'unica forma, appunto, per combattere la disoccupazione sia proprio quella della formazione continua attraverso un percorso di lifelong learning, come viene definito oggi, che ci accompagna da tutta la vita. Quindi non è più come, diciamo, al tempo dei nostri genitori, in cui in qualche maniera il posto fisso, tra virgolette, li garantiva per tutta la vita. Adesso questo posto fisso si è ridotto, siamo moltissimi alla ricerca del lavoro, è aumentata la soglia delle persone laureate che hanno una formazione superiore, e quindi siamo entrati un po' in competizione fra noi. Grazie a Cristina Carpinelli per aver realizzato questo approfondimento per la puntata di odierna di Italia in Controluce, che naturalmente potete riascoltare cliccando sul nostro sito radio24.it. Un saluto da Maria Piera Ceci.